e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ed eccoci qui a continuare con voi le dirette di Cuore Denari in questa fine di dicembre. Questa settimana è un po' il nostro conto alla rovescia per l'anno nuovo, ma è anche il conto alla rovescia per il giorno in cui, si spera, un po' di pioggia ci aiuterà finalmente a combattere i livelli preoccupanti di inquinamento di questi giorni. Torneremo a parlarne anche oggi con il dottor Mocci. Certo, non basta la pioggia per cambiare le cose, devono cambiare anche le nostre abitudini e le nostre politiche, che devono essere più attente all'aria che respiriamo e all'ambiente in generale. Chissà, tra i buoni propositi a cui state pensando per l'anno nuovo potrebbe esserci anche quello di fare un pochino più attenzione ai consumi di casa, anche per avere più rispetto del nostro ambiente, oltre che naturalmente per risparmiare un po' di soldini. E in questo potrebbe aiutarci l'autorità per l'energia elettrica ed il gas. Le notizie proprio fresche di ieri: dal 1 gennaio 2016 arriva un doppio calo per le bollette. Quella dell'elettricità registrerà un calo dell'1,2%, mentre per la bolletta del gas la flessione sarà ancora più significativa, meno 3,3%. Un risparmio che però può essere sempre rovinato dalle cosiddette bollette pazze o maxi conguagli che a tante famiglie italiane capita di ricevere, contro le quali si stanno battendo le associazioni dei consumatori. Ne parleremo proprio in apertura con un breve approfondimento prima di passare alla pagina di Cuore, in cui parleremo di un'influenza e un classico delle vacanze di Natale, anche la sua stagione, ma quest'anno è proprio l'aria inquinata che peggiora il quadro. Infatti può scatenare o peggiorare il quadro di molte patologie respiratorie, come vedremo insieme. 800 24 00 24 per i vostri interventi su tutti questi temi, e quindi restate con noi e, come dice sempre Deborah, mano alla cornetta. L'utente si deve pure organizzare, perché la bolletta va pagata, e consiglio a tutti di pagarla la bolletta subito. Non la devi accumulare sullo scrittoio, perché le bollette si accoppiano. Tu ne hai lasciate due, c'hanno il codice a barre, hanno fatti i cuccioli, hanno moltiplicato. Devi andarla a pagare subito, non avere timori, perché vai a pagare, in modo tale che sei pronto per pagare le altre bollette. Tant'è vero che loro, chi gestisce, sa che tu le puoi pagare. Eccoci qua, bollette che si moltiplicano, che si accumulano, che aumentano. Ne parliamo questa mattina con Luigi Gabriele, responsabile degli affari istituzionali di Codici, Centro per i diritti del cittadino. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Nicoletta. E anche un po' auguri, ormai ci siamo, no? Si svolta. Sì, è importante. Tanti auguri a tutti. Tanti auguri anche a lei. Gabriele, tra poco arriviamo alle maxi bollette, un tema che le sta molto a cuore, sta a cuore anche a noi, ma prima non possiamo non commentare questa notizia che è arrivata proprio ieri. Si parla di un calo delle bollette di luce e gas dal 1 gennaio 2016, un risparmio complessivo stimato in circa 60 euro all'anno a famiglia. Da cosa dipende? È una buona notizia? O poi può essere vanificata da altri fattori? I risparmi sono sempre buone notizie. Il problema è che questo risparmio si manifesterà esclusivamente per coloro che sono clienti nel mercato di tutela, ovvero in quel mercato in cui i prezzi li stabilisce l'autorità per l'energia elettrica e il gas. Per quello l'autorità annuncia queste variazioni, perché è lei che definisce i prezzi. Peccato però che proprio dal 1 gennaio entra in vigore un nuovo sistema di tariffazione dell'energia, nel quale, pensate, udite udite, pagheranno di più proprio coloro che tenderanno di più a risparmiare energia, perché il nuovo meccanismo sarà tale che tenderà a premiare i più alti consumi, ovvero il concetto è: più consumi energia più ti premio. Certo. E quindi meno consumi energia più ti penalizzo, e quindi succederà che nella stragrande maggioranza dei casi, ovvero per 24 milioni di utenze, quelle che hanno i requisiti, le caratteristiche stabilite dalla riforma tariffaria, ci sarà un incremento medio di 100 euro in 3 anni. Il primo anno saranno 60, poi 80 e poi il terzo anno 100. Quindi i risparmi delle 60 euro annunciati ieri se ne vanno. Si sterilizzeranno completamente con i rincari invece che sono previsti dall'aumento tariffario. Ovviamente non dimentichiamoci sempre che dal 1 di giugno 2016 entrerà in vigore anche il canone RAI in bolletta, e in più c'è anche un'altra bella sorpresa, ma quella ne parleremo. No, ne parleremo, anche perché mi ha dato subito una doccia fredda. Ho capito che verranno premiate le cicale a svantaggio delle formiche. Ah, mercato? Assolutamente sì, perché il concetto è spingiamo i consumi di energia elettrica. Se questi consumi vanno a essere spinti, devono essere spinti anche con una specie di supporto, di sostegno. Certo, insomma, più consumi, insomma, meno spendi, dai. Esattamente. Una specie di 3x2 al supermercato, no? Esatto, che parliamo di una commodity, di qualcosa invece in cui l'italiano tendenzialmente tende a fare esattamente il contrario, perché ormai non dimentichiamoci che l'energia, il gas, mediamente su un bilancio familiare annuale per una famiglia cosiddetta tipo, sono circa 2.500 euro se ci siamo comportati bene. Poi, se non ci è capitata una maxi bolletta, le cose peggiorano ancora di più. E infatti noi oggi proprio vogliamo mettere a fuoco il fenomeno dei maxi conguagli. Molti ascoltatori potrebbero ritrovarsi. Gabriele, che entità ha in Italia questo problema e da che cosa è originato? Perché siamo arrivati a questo punto? Allora, l'entità è molto vasta. Allora, tenete conto che soltanto nell'energia elettrica incidono per l'11% del totale delle fatture, quindi l'11% delle fatture sono stimate, mentre per il gas addirittura si arriva a raggiungere quasi la soglia del 50%. Perché? Nell'energia elettrica in teoria il problema doveva essere completamente annullato circa 10 anni fa, nel momento in cui abbiamo installato i cosiddetti contatori teleletti. In Italia ci sono oltre 30 milioni di contatori teleletti che dovevano servire appunto a fare in modo che la rilevazione di quanto abbiamo consumato avvenisse a distanza, non serviva più che andava il letturista a casa e prendeva la cosiddetta lettura da parte del consumatore. Nell'energia questo problema in sostanza al 99% doveva essere risolto, invece ancora abbiamo un 11% di fatturazione di natura stimata, mentre nel gas addirittura in assenza dei contatori diretti addirittura il problema si ripercuote per raggiungere circa la soglia del 50%. E il problema deriva dal fatto che il dato di misura non viene letto puntualmente, né se abbiamo un contatore teleletto né se abbiamo un contatore tradizionale. In sostanza il soggetto che dovrebbe rilevare questo dato, che si chiama distributore, che è diverso dal venditore, è colui che distribuisce l'energia o il gas, dovrebbe venire o a casa o a remoto, a distanza, prendere il dato di misura, quello che abbiamo consumato, lo dovrebbe passare al cosiddetto venditore, che poi deve fatturare sulla base di quanto abbiamo effettivamente consumato. Così non avviene nell'11% dell'energia e nel 50% del gas. E allora 800 24 00 24, potete come sempre scriverci al 349 238 6666, mandarci un WhatsApp se anche voi vi siete trovati in mano una bolletta che vi ha assolutamente sorpreso. L'avete pagata? Avete provato a contestare questi conguagli? Raccontateci e diteci anche come è andata a finire. Insomma, c'è chi non riceve bollette per anni oppure paga solo per consumi stimati, poi si vede arrivare, Gabriele, queste bollette pazze che spesso sembrano davvero fuori misura e non corrispondenti alla realtà dei consumi effettuati. Ma il problema è: come faccio a dimostrarlo? Questo è il problema principale, perché in teoria il consumatore ha uno squilibrio di poteri rispetto al soggetto che dovrebbe rilevare il dato, perché solo lui può accedere al contatore, in sostanza, se è un contatore dell'eletto, mentre se è quello tradizionale, pensate, se vogliamo far verificare il contatore noi dobbiamo addirittura sempre chiamare il nostro operatore e solo lui può verificarlo se funziona o non funziona correttamente. In sostanza non abbiamo mai il diritto al contraddittorio in questo settore. E come facciamo? Il consumatore italiano si fida un po' troppo, per quello quando arriva la fattura va all'ufficio postale o va al tabaccaio, paga e non si rende conto di quello che sta pagando. Nella stragrande maggioranza dei casi il consumatore ritiene che sta pagando quello che ha consumato. Errore. Soltanto a distanza di anni, perché non si vanno mai a leggere nel dettaglio le fatture, che tra l'altro ricordo dal primo di gennaio cambieranno, diventeranno due, questo non so se sarà un vantaggio o uno svantaggio. Le pagine che noi abbiamo nelle fatturazioni, che prima erano numerose, ma nella loro numerosità c'erano molti dati interessanti e utili, perché ovviamente avevano un po' per addetti ai lavori, però diciamo la verità, ecco, assolutamente perché... sì, però il problema è che dal 1 gennaio tutti quei dati spariranno, a meno che il consumatore non vorrà richiederlo. Quindi se da subito il consumatore non si rende conto che sta pagando qualcosa che non corrisponde alla realtà, sarà un problema andare ulteriormente addirittura a approfondire quello che è successo. Anche questo è un modo per alleggerire le bollette, no? Fare il numero di fogli, ecco, mi sembra che l'alleggerimento sia solo, no? Alleggerire soltanto il numero numero di fogli non è un granché. No, il problema direi, è, infatti. Il problema è che qua si alleggerisce troppo spesso il portafoglio dei consumatori. Pensate a tutti coloro che dopo 3-4 anni che hanno cambiato fornitore, oppure a persone che dopo 5 anni si vedono arrivare una sorpresa straordinaria che non è una fattura da 500-600, ma iniziano a essere fatture molto corpose. Io direi che anche all'interno di un nucleo familiare, anche una fattura di soli 2.000 euro, soli, scusate le tra virgolette, certo, soli 2.000 euro possono cambiare completamente l'andamento economico della famiglia, perché nessuno sa quello che succede all'interno di quel nucleo familiare. Quindi il nostro diritto è sempre quello di dover pagare quello che consumiamo. Ma in Italia succede un fenomeno stranissimo, che è quello che noi in bolletta, sia per il gas che sia per la luce, sì, paghiamo una voce che si chiamano oneri di misura, e non sono nemmeno così poco rilevanti, sono una bella fetta, incidono quasi per il 13% nell'intera torta della bolletta, sia per l'energia che per il gas. In sostanza noi paghiamo qualcheduno che ha il dovere di doverci verificare il contatore che funzioni correttamente innanzitutto, deve rilevare questo dato, trasmetterlo al fatturatore che poi a sua volta deve mettere la fattura sulla base di quello che abbiamo consumato. Ma così non è. Non è per tutta una serie di motivi. Quindi lei noi dice, paghiamo la lettura dei contatori che non viene effettuata, è così? Esattamente, infatti proprio per quello noi ci voi siamo vi eravate molto già espressi in maniera molto chiara, no? Sì, noi abbiamo detto riguardo anche quella moratoria che era stata fatta, che non vi sembrava sufficiente. Sì, anche perché noi abbiamo detto, scusate, adesso voi ci chiedete, ci inducete a fare l'autolettura. Va benissimo, perché i consumatori devono imparare a leggere i contatori e a tenere sotto controllo i consumi. Ma perché io devo autoleggermi qualcosa per il quale io già pago qualcheduno che devo farlo? È come se io vado dal macellaio e dico, dammi mezzo chilo di carne, però non te la pago perché tu me la devi. Cioè, è un contesto nel quale il paradosso che succede è proprio che noi ci troviamo ad avere queste fatture di maxi conguai e non saremmo proprio dovuti e tenuti a doverle pagare, perché in sostanza noi siamo certi che ci dovrebbero in teoria sempre fatturare quello che noi consumiamo realmente. Allora, adesso ci fermiamo perché volevamo dare la parola a Raffaello che ci chiama da Napoli, perché invitiamo i nostri ascoltatori a intervenire, allora vogliamo dare spazio, soprattutto se avete un consiglio da chiedere a Luigi Gabriele, se avete ricevuto una maxi bolletta, non sapete che fare. Raffaello, buongiorno da Napoli. Buongiorno a lei. Buongiorno e auguri, Raffaello. Grazie altrettante, anche di buon anno. Senta, io volevo dirle che ultimamente io ho fatto la solita autolettura per quanto concerne il gas e naturalmente attendevo la bolletta inerente ai metri cubi che avevo consumato realmente. Certo. Invece, nonostante questo, mi è arrivata quasi una bolletta raddoppiata, anche perché loro forse fanno delle previsioni per quanto concerne gli anni scorsi, dove c'era un consumo maggiore per il riscaldamento. Ora il riscaldamento molti lo tengono spento. Certo. E mi è arrivata una bolletta quasi del doppio. Allora, nonostante la mia autolettura. E lei adesso è fermo lì con la sua bolletta? Io sono fermo qui con stia la mia lì bolletta. Stia lì, che noi abbiamo Luigi Gabriele, fermiamo anche lui, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, le autostrade, e poi ritorniamo subito dopo insieme per analizzare il caso di Raffaello. Ci chiama da Napoli, una cattiva sorpresa. Cuore e denari. C'è bollette della luce oggi in apertura a Cuore Denari, bollette che a volte ci sembrano impazzite, maxi conguagli che molti italiani ricevono, che anche tanti nostri ascoltatori ci segnalano, come Raffaello che ci ha chiamato da Napoli. Insomma, cosa sta succedendo e come comportarsi? Ne stiamo parlando oggi con Luigi Gabriele, responsabile degli affari istituzionali di Codici, Centro per i diritti del cittadino. Allora, Gabriele, vogliamo occuparci, anzi vuole occuparsi lei, che è un tecnico del caso di Raffaello da Napoli? Questo è il classico caso in cui, nonostante il consumatore ha dato la sua autolettura, il distributore non l'ha presa per niente in considerazione e allora il venditore ha continuato a fatturare in consumo stimato, presumendo che, essendo in questo periodo, essendo freddo, essendo lo storico precedente del consumatore tale, certo, allora ha pensato di rifatturare esattamente quello che invece il consumatore pensava di dover ricevere, perché mi diceva: ho consumato 100, ho comunicato 100 e questo mi hanno fatturati 200. Questo a dimostrazione che il tema che il governo sta affrontando in maniera, poi vedremo come, e il Parlamento ha sollevato, è di una gravità inaudita, perché, come dicevo prima, noi paghiamo qualcuno che non fa questo mestiere, adesso ci chiedono di farlo a noi senza la nessuna certezza che l'autolettura che il consumatore pone venga presa in considerazione, perché poi il tema fondamentale è che loro presumono che il dato che noi forniamo non sia attendibile e quindi vogliono una prova provata che quello che abbiamo comunicato sia in realtà quello che noi abbiamo fatturato. Ma noi non siamo tenuti a dover fare questa iniziativa, anche perché noi diciamo: ok, se lo facciamo noi, a questo punto ci togliete, bravo, quei soldi che ci fate pagare senza darci il servizio. Ma in soldoni, Raffaello, che cosa deve fare secondo lei? Esattamente contestare quella fattura. Come si fa? Si chiama una lettera di reclamo. Basta che vede nella sua bolletta c'è scritto la modalità di invio, avviene o per fax o per raccomandata, la deve inviare al proprio venditore, fa anche una foto del suo contatore e contesta che la fatturazione che gli hanno emanato è un consumo stimato, invece che lui ha effettivamente consumato soltanto la cifra D, e allega la foto del contatore e chiede la rifatturazione. E quindi, in sostanza, in questo modo almeno si pone nelle condizioni di non essere oggetto di un distacco o di una riduzione di potenza, perché poi, tra l'altro, il paradosso è che, nonostante spesso nella stragrande maggioranza il consumatore ha ragione, rimanendo immobile, non facendo niente, non formalizzando formalmente con una lettera di reclamo quanto gli è stato richiesto, accade che poi, senza accorgersene, perché arriva una semplice lettera di sollecito che viene considerata come raccomandata semplice, diventa oggetto prima di riduzione di potenza e poi anche di distacco, e il paradosso del paradosso deve anche pagare gli oneri per la rialimentazione dell'utenza qualora. Quindi, Gabriele, il danno è la beffa, no? Ecco. A questo poi, tra l'altro, non ci sono strumenti tali che permettono al consumatore di avere anche un risarcimento del danno per essere stato così in maniera così drammaticamente distaccato dall'utenza, nonostante aveva ragione. Ci sono degli strumenti che sono di natura conciliativa, ma che tra l'altro non riconoscono nemmeno il danno al consumatore, quindi si è sempre costretti a dover adire al classico giudice di pace. Senta, ma a ottobre la Camera aveva bloccato i pagamenti di centinaia di queste bollette, no? Di queste maxi bollette, aveva dato al governo un mandato ben preciso. Questo è quello che è successo l'altro giorno nel famoso tavolo delle maxi bollette. La Camera ha detto testualmente: se non fermate questo problema, ha dato un mandato chiaro al governo, se vi do un tempo limite, il governo ha l'obbligo di dover fermare il fenomeno delle maxi bollette. Se non lo fate voi, poi intervengo io in sede legislativa. Allora il governo che cosa ha fatto? Si è preso l'incarico un sottosegretario che si chiama La Vicari, che ha messo insieme tutti gli operatori, i distributori e soltanto nell'ultima riunione i rappresentanti dei consumatori, cercando di far capire, di tentare una mediazione tra tutte le parti per trovare una soluzione. Il problema è che noi il 22, che eravamo in rappresentanza dei consumatori seduti al tavolo, abbiamo trovato dall'altra parte un sistema di rappresentanze che appare assolutamente sordo al fenomeno. Cioè, qui si tende ancora a dire: ma se il consumatore per anni non paga la bolletta e poi arriva il conguaglio, che cosa pretende? Oppure se il consumatore per anni non controlla il consumatore e poi arriva il conguaglio, che cosa pretende? Insomma, il problema è sempre il consumatore. Sì, non però è, mi scusi, Gabriele, dato che io me ne posso parlare perché sono assolutamente un consumatore, ma se non mi arriva la bolletta per un anno, due anni, qualche cosa, un sospettino, insomma, dovrei avere, qualche cosa dovrei fare. Ovviamente non è questo il numero di casi in cui sono oggetto di maxi conguaglio. Il numero di persone che non riceve le bollette è assolutamente vorrei dire quasi nominale, cioè sì, troviamo i casi gravi che rappresenta la parte più i numeri che vi dicevo prima, l'11% dell'energia o il 50% del gas, sono tutti altri, sono tutti quegli altri che pagano regolarmente le fatture, non hanno capito che stanno pagando delle fatture in consumo stimato. Oppure sono coloro che cambiano operatore per risparmiare e dopo 2 anni arriva un conguaio dal vecchio operatore perché non si erano resi conto che anziché farli cambiare esattamente al momento del consumo, cioè ai 100 metri cubi di consumo, li hanno fatti cambiare ai 50 metri cubi di consumo e quindi a distanza di 2 anni chiedono il conguaio. Il problema è che il consumatore è oggetto di una serie di disattenzioni da parte dei distributori di energia e di gas, ma soprattutto di disfunzioni del sistema e di mancate attività che poi si ripercuotono sul bilancio. Guardate, io vedo piccole attività chiudere per questo fenomeno, oppure vedo famiglie anche normalissime, messe in ginocchio, certo, Gabriele, per bene, normalissime, di persone che lavorano, messe completamente in ginocchio, perché quando ti chiedono 3, 4, 5 mila euro in 10 giorni non è una cosa, non è una, assolutamente. Ma allora Gabriele, facciamo in queste puntate di chiusura d'anno, come d'altronde lo cerchiamo di farlo sempre, diamo un po' delle indicazioni concrete, perché così anno nuovo, vita nuova, cerchiamo di rizzare un po' le antenne, di non farci fregare. In 4 mosse, allora ricordatevi di dovete farvi un registro dei vostri consumi di energia e di gas, dove mensilmente vi appuntate il dato in cui si trova il contatore del gas o il contatore dell'energia. Mensilmente? Mensilmente lo fa. Ricordate che per l'energia ci sono 3 dati da prendere, sono la 1, la 2 e la 3, invece per il gas basta l'unico dato di consumo. Ve li registrate. Quando vi arrivano le fatture, confrontate se quel dato presente sul misuratore corrisponde con il dato che vi hanno fatturato. Se non è così, dovete contestare immediatamente mediante un reclamo scritto da inviare all'operatore mediante le modalità che sono scritte sempre nel retro della fattura. Inviate il reclamo, attendete 40 giorni, se entro 40 giorni non hanno sanato la vostra posizione o non vi hanno risposto, dovete necessariamente rivolgervi a un'associazione consumatori, una qualsiasi associazione che sta nei paraggi o che cercate su internet, perché bisogna attivare una procedura successiva che si chiama procedura di conciliazione, altrimenti il consumatore si trova con il distacco dell'utenza o la riduzione della potenza. In questo modo invece siete tutelati, perché loro sono tenuti a dover rispettare una serie di norme. Per quanto riguarda invece la scelta degli operatori o del mercato, è indifferente o mercato libero o mercato tutelato, ma ricordatevi sempre che la cosa fondamentale è che quando cambiate un operatore accertatevi che l'operatore uscente vi abbia fatturato fino alla fine di quello che avete consumato, fino all'ultimo giorno in cui eravate con loro, e quello entrante invece vi inizia a fatturare esattamente nel momento in cui entra allo stato di consumo in cui entra proprio. Come posso verificare questo? Questo si fa attraverso la cosiddetta verifica di switching. La spiega. Quando fate un nuovo contratto, ci sono 2 mesi di tempo entro cui l'operatore uscente deve consegnare la fornitura al nuovo operatore. Sì. Vi dovete far dire esattamente quando entrate in nuova fornitura, lo vedete tra l'altro dalla data in cui c'è scritto nella prima fattura utile, e dovete verificare esattamente l'ultima fatturazione che vi emette invece l'uscente, anche lì c'è la data, e dovete fare il confronto con i dati presenti sul misuratore, per cui è fondamentale tenere sempre sotto controllo il contatore. Non c'è la possibilità di dire vabbè cambio, ma non vado a vedere esattamente che cosa nel momento in cui o che cosa ho cambiato. Quindi è fondamentale soprattutto farvi un registro dei consumi. Allora, leggo prima di salutarla questo messaggio. La bolletta del gas nella seconda casa è sempre stimata. Da 2 anni non è abitata, comunico il consumo 0, loro stimano il consumo ipotetico. Anche in questo caso si procede? Esattamente, si deve contestare la fattura mediante un reclamo scritto. Se il contatore è chiuso, allora ci sono comunque degli oneri che sono i cosiddetti oneri fissi che continuano, che devono comunque essere fatturati e vengono fatturati non ogni 2 mesi, in questo caso ogni 3 mesi, anche se non vi è consumo, ci sono dei piccoli oneri, parliamo di decine di unità di euro. Quelli ci toccano, però? Quelli comunque vanno pagati. Però se continuano a stimare, il consumatore deve comunque contestare mediante un reclamo avevamo scritto citando appunto il fatto che, sempre allegando la foto, la prova e così via, che in quell'abitazione non vi è stato consumo e quindi si richiede la riemissione della fatturazione con l'annullamento delle precedenti. Allora, un ascoltatore ci scrive che da aprile è interrotta la fornitura di gas con un fornitore, ma dopo ripetute telefonate non gli è stata restituita la cauzione di 90 euro. Che cosa può fare? Questo è il classico. È una bella gatta da pelare, come si dice. No, nel quale si pretende sempre ma non si dà mai. Allora, bisogna vedere se il consumatore ha lasciato un'amorosità con quell'operatore, è possibile che abbiano stornato quelle cifre. Sì, se no. Altrimenti l'operatore che è stato l'operatore uscente è tenuto a dover restituire la cauzione a un tempo massimo che sono 120 giorni. Nel caso in cui superi questo tempo massimo, il consumatore può comunque sempre dire una conciliazione che è anche interesse. Allora, grazie. Torneremo ad affrontare questo tema che è spesso un problema. Intanto la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata e soprattutto un buon 2016. A presto, a cuore denari. Grazie a tutti gli ascoltatori e anche a lei. Buona giornata. Grazie. Grazie. Noi adesso andiamo alle notizie del nostro GR. Subito dopo tornate con noi, restate quindi con noi perché parliamo di influenza. È un classico dell'estate, ma a complicare la situazione ci si mette anche l'aria inquinata. Faremo il punto, ma vi daremo anche rimedi. A tra poco. Secondo me, essere buoni significa non arrabbiarsi con nessuno e picchiare nessuno. Come sarà il 2016? Come si immaginano i bambini la vita nel futuro? Perché si dice buon anno? Lo scopriremo a Terra in Vista, il 2016 spiegato a mio figlio. Sono Federico Taddia e vi aspetto, insieme al filosofo Telmo Pievani, giovedì 31 dicembre alle 21 e venerdì 1 gennaio alle 9, con racconti, favole, ospiti e tante curiosità. Per grandi e piccini. Radio 24, feste in vista. Cuore e denari. Mal di gola, tosse, raffreddore, un po' di febbre, tanto per gradire. L'influenza è un classico delle feste di Natale, un po' come il panettone e il pandoro. Quest'anno però a complicare le cose ci si mette anche la qualità dell'aria delle nostre città. Le polveri sottili, irritando le vie respiratorie, spianano, per così dire, la strada ai virus influenzali, mettendoci KO. Che aria tira lì da voi? È arrivata l'influenza a rovinare le vacanze di Natale oppure per il momento vi ha risparmiato? 800 24 00 24, chiamateci per avere consigli, per continuare a tenere alla larga l'influenza, ma aiutatemi naturalmente anche voi se avete un rimedio che si è dimostrato particolarmente efficace, suggeritecelo al nostro numero verde. Ma naturalmente ci occuperemo di chi si sente un po' acciaccato, sente la gola che prude, brucia, il naso che cola o si tappa, non riesce a liberarsi di quella tossetta stizzosa, e naturalmente in cuor suo si chiede se sia l'effetto dell'inquinamento o la solita influenza che viene annunciata sempre a cavallo delle feste. Oggi è venuto a trovarci il dottor Andrea Franzetti, primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Guardi, io avevo un po' di raffreddore a vedere lei, già mi è passato. Pensa che potere. Allora, con lei vorrei fare un breve sommario e allora ho pensato di individuare un po' le parole chiave che saranno protagoniste della nostra puntata. Inizierei con naso e gola, perché è qui che ha iniziato un po' la battaglia, no? L'influenza stagionale preferisce i recettori che si trovano nelle cellule di naso e gola e anche la parte alta dei polmoni, e tra l'altro lo smog e le polveri sottili facilitano l'ingresso di virus e batteri, insomma ce la respiriamo tutta. Certo, la prima constatazione da fare è che bisogna fare una differenza tra quella che chiamiamo sindrome influenzale, che è l'insieme dei sintomi che ho appena descritto, cioè i sintomi legati al naso, alla gola, e l'influenza virale, che è invece quella per cui facciamo i vaccini. Ok. Perché l'influenza virale è una patologia virale, curabile e diciamo prevenibile dal vaccino, che in questo momento non è ancora esplosa perché si prevede che arriverà soprattutto in gennaio. La sindrome influenzale invece è quell'insieme di sintomi che non sono legati al virus, ma che sono legati a un'irritazione delle alte o basse vie respiratorie. Noi la individuiamo perché diciamo che sono un po' delle cugine dell'influenza. La vera differenza tra le due sta nella febbre. perché nella sindrome influenzale difficilmente c'è una febbre importante, mentre invece nella forma virale la febbre c'è. È il meccanismo di difesa dell'organismo. A peggiorare il quadro, dicevamo, c'è anche l'inquinamento, no? Perché l'aria inquinata in qualche modo aiuta virus e batteri a colpirci, è così? Assolutamente, perché noi abbiamo delle difese localizzate nei cosiddetti filtri che abbiamo a livello del naso, a livello dell'apparato linfatico, che vuol dire le tonsille, la base linguale, quindi a livello della gola, che non permettono, diciamo, frenano l'ingresso di virus e batteri. Se in qualche modo questo strutture sono, diciamo, distratte dalla presenza di sostanze che vanno a non mettere in contatto la superficie con il virus o il batterio, possiamo ridurre in maniera importante la nostra difesa immunitaria. Allora, naturalmente i nostri ascoltatori ci stanno già scrivendo, io li ringrazio, ringrazio Francesco da Mantova che ci suggerisce i suoi rimedi, ci raggiungerà anche il dottor Luca Voledo nel corso di questa trasmissione per suggerirci rimedi naturali. Francesco da Mantova suggerisce zenzero e mandarino in grande quantità, funzionano anche per un fumatore come Francesco che abita in una zona molto carica di smog, e quindi segniamoci zenzero e mandarino. Lei è d'accordo, dottor Franzetti? Ma tutto ciò che introduce vitamine in questo momento può aiutare il sistema immunitario, quindi zenzero e agrumi sono sostanze che introducono vitamine. Allora, continuiamo con le nostre parole chiave. Andrei a prurito, bruciore, pizzicore. Possono interessare il naso, la gola, anche gli occhi. Possono manifestarsi in momenti particolari della giornata oppure all'improvviso, senza causa apparente. Ma allora, non stiamo parlando di una reattività di tipo allergico, perché non siamo in un periodo di particolare esposizione ad allergeni, anche se uno deve domandarsi se è stato esposto a polveri particolari, non so, ha rassettato tutta la cantina, voglio dire. Certo. Però se non c'è stata un'esposizione a questo, bisogna domandarsi perché di questa irritazione. Anche l'aria che respiriamo può in qualche modo in questo periodo andare a irritare determinate zone, soprattutto naso e gola. Per cui ci sono quei sintomi un po' fastidiosi, che non sono una vera e propria malattia, ma che sono un non benessere. Vogliamo aggiungere alle nostre parole chiave tosse, stizzoso, grasse, per definizione lo sappiamo un meccanismo di difesa, e considerato il tempo e i tempi ha da che difenderci. L'elenco è lungo, dottor Franzetti, ci mettiamo però anche la qualità dell'aria, perché leggendo di tutte queste, no, dell'aria inquinata, noi uscendo di casa sentiamo anche degli odori strani, segno che il nostro naso funziona, ci viene da schiarirci la gola, allora non sappiamo se ci sta arrivando la cugina dell'influenza oppure se è un modo con cui il nostro organismo reagisce in modo sano a questa aggressione dell'aria inquinata, che si distribuisce, lei ce lo racconterà, in modo differente a seconda del naso, della gola, cioè ogni, certo, ogni distretto ha la sua polvere. Ma se parliamo della tosse, la tosse irritativa è una tosse secca di solito, quella che ha descritto come stizzosa, e è la prima fase della tosse. Laddove invece poi all'irritazione subentra una reattività alla presenza di virus o batteri, la tosse vira, cioè diventa una tosse catarrale, cioè diventa una tosse che non è più soltanto il fastidio che uno ingola che lo spinge all'inizio magari a schiarire la voce, diventa una tosse con anche uno scolo di muco dal naso verso la rinofaringe, eccetera. E quindi a quel punto ci si introduce verso una fase di malattia più che di non benessere. E l'aria, diciamo così, che è a tema in questo periodo, in cosiddetta l'aria che non è l'aria inquinata in generale, che cos'è che andiamo a vedere noi di quest'aria quando si parla? Andiamo a vedere le particelle che ci sono nell'aria. Quando noi facciamo l'aerosol o facciamo l'inalazione, per esempio, introduciamo delle particelle di diciamo grandezze diverse. Se facciamo un'inalazione introduciamo delle particelle più grosse che si fermano nel naso e nella parte alta della gola, se facciamo l'aerosol introduciamo le particelle più piccole che arrivano fino agli alveoli e ai bronchi. Per esempio, quando noi parliamo di dosiamo, siamo stati oltre un certo livello di particelle nell'aria, Che cos'è che viene misurato? Vengono misurate le particelle di una certa dimensione, perché le particelle che sono intorno ai 7 micron, che vuol dire 7 millesimi di millimetro, si fermano di solito nel naso, non vanno oltre. Quelli che sono intorno... Quindi naso diametro 7. Diametro, diciamo. 7. Se siamo nella gola andiamo a diametro 3,5-4. Se arriviamo in trachea arriviamo al diametro intorno 2-3. Con più diventano piccole, il cosiddetto diametro 1, siamo già nei bronchi e addirittura negli alveoli. Quelle dannose nel senso che possono portare malattia, sono quelle più piccole, cioè che arrivano nelle basse vie respiratorie, quindi a livello bronchiale e alveolare. Quindi viene dosato il cosiddetto PM10 o PM1, che ci dice i 1 micromillimetro di diametro. Tutto il resto non viene dosato nell'aria. Quindi quando noi diciamo ci sentiamo il bruciore nel naso e nella gola, io dico naso 7. Però non l'abbiamo dosato nell'aria, certo. Quindi è anche un po' psicologico dire ci sono le particelle, il PM10 è alto e allora mi brucia il naso, perché non sappiamo il PM7 quant'è. Quindi tante volte c'è anche un condizionamento psicologico sul disturbo che sentiamo. Quindi, però ci sono già molti ascoltatori che ci scrivono, però l'aria in questi giorni ha un odore strano. Certo, però noi non abbiamo il riscontro oggettivo, ma abbiamo il riscontro soggettivo del non benessere, questo è evidente. 800 24 00 24, chiamateci, scriveteci se avete bisogno di un consiglio per evitare di farvi mettere KO dall'influenza, per proteggervi dall'inquinamento, scriveteci anche se avete un rimedio, suggeritevelo, ma chiamateci anche per dirci che aria tira lì da voi, il vostro naso cattura odori strani, vi pizzica la gola, avete bisogno di schiarirvi la voce, è tornata una tossetta strana a disturbare le vostre giornate e le vostre notti. Chiamateci intanto, dottor Franzetti, partiamo dal naso, a lui proprio spetta questo, il compito di filtrare l'aria che respiriamo, no? Ma se il naso è KO, si respira con la bocca e quindi addio, questo filtro. Questo è il passaggio decisivo, soprattutto quando noi siamo in una situazione, per esempio, di aria cosiddetta non salubre. Sì. Perché? Perché il naso è il filtro decisivo per cui tutto quello che sta oltre il naso stia bene. Se per qualsiasi ragione il naso non funziona bene e appunto respiriamo dalla bocca, nella bocca entra tutto, arriva direttamente nei polmoni e questo è un disastro e questo innesca una serie di meccanismi. Quindi la prima cosa, il primo consiglio è che il naso sia in salute, che vuol dire mantenere un'igiene nasale adeguata. Per esempio in questo periodo i cosiddetti lavaggi nasali fatti con soluzioni isotoniche, soluzioni ipertoniche, con acqua di tipo termale sono la prima indicazione. Lei dice che alla sera, soprattutto in questi giorni in cui il livello di inquinamento è elevato, noi è un lavaggetto nasale igienica come lavarsi i denti, voglio dire, perché prima di tutto si anche toglie... ai bambini. Anche i bambini, con le accortezze da fare sui bambini, perché nell'adulto si può usare anche un energico spray nasale, sì. Mentre invece nel bambino è sconsigliabile l'utilizzo dello spray o del cosiddetto lavaggio con la siringa, con fisiologica molto energico, perché altrimenti la tuba, che è quel canalino che collega il naso con l'orecchio, rischia di aprirsi e di mandare tutto il muco, il catarro che il bambino ha nel rinofaringe dentro l'orecchio. Di che età stiamo parlando? Un bambino di? Sotto i 3-4 anni. Sotto i 3-4 anni, no, per loro è indicato la fialetta. La fialetta fatta con, diciamo così, con delicatezza, in questo modo qua. Allora, Giovanni ci chiama da Torino all'800 24 00 24, Francesca da Verona. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Auguri. Grazie, anche a voi. Volevo dire, io pratico da anni una forma di toilette nasale, appunto con i lavaggi nasali, li faccio con una specie di teierina che in cui metto acqua e sale che preparo io e mi lavo le narici dalle due parti. Poi faccio molto sport, cosa che mi fa ovviamente fare dei bei respiri profondi, così mi pulisco i polmoni. Ma soprattutto pratico il vaccino antinfluenzale da più di 20 anni. Non mi sono mai preso l'influenza da quando attuo questa specie di bonifica polmonare. Bonifica polmonare, mi è piaciuta. Giovanni, complimenti, dottor Franzetti. Adesso, sì, allora, in questi nasale... giorni, posso aprire una, sì, parentesi? Io vedo, beh, allora, io abito vicino a un parco e vedo ancora, quando passeggio con il mio cane, in questi giorni, gente che corre. A me personalmente non mi sembra una buona idea, no? Si potrebbe rimandare di qualche giorno magari l'allenamento a fare, perché la qualità dell'aria, diciamo che non è ancora, non si è ancora decisa a ritornare di qualità. Beh, per le alte vie respiratorie sarebbe meglio non correre in questi giorni, per il resto dell'organismo sarebbe mortificante non farlo, per cui bisogna cercare magari di andare a correre in montagna, così Sì. Fate una bella corsa in montagna, sì. Ho chiusa la parentesi, no, invece per il commento del nostro ascoltatore. Era interessante perché una delle possibili forme di lavaggio nasale si fa con la cosiddetta lota, che è una specie, appunto, come diceva, di teiera, che permette il lavaggio del naso. Una cosa, solo una notazione, è importante che lo strumento che utilizziamo per fare questi lavaggi sia sempre pulito e disinfettato adeguatamente, e che non venga utilizzata acqua che possa essere acqua infetta, per cui deve essere utilizzata acqua, l'ideale sarebbe acqua tiepida bollita prima. Sì. Se si vuole, oppure la fisiologica, perché altrimenti si rischia in alcune situazioni di introdurre nel naso e nella gola determinati batteri. Allora, a proposito di naso, dato che è lui, no, il primo a così difenderci in qualche modo, a filtrare l'aria, ma è il primo poi a lamentarsi, perché basta qualche cosa di irritante, che ecco che starnutisce. Gli starnuti sembrano tutti uguali, ma sono in realtà tutti diversi. Chiedo a Carmelo, che oggi è, come sempre d'altronde, ci accompagna, di mandare la nostra scheda, così se vi riconoscete 800 24 00 24 mano alla cornetta, e tra poco il domandone del dottor Franzetti. Il raffreddore dura a lungo e ti sembra non passi mai? Quando ti soffi il naso respiri meglio o non provi alcun miglioramento? Senti la testa pesante e dolente, specie nella zona della fronte e degli occhi? Come senti gli odori? Chiari e distinti o un po' sfumati? Allora, se vi riconoscete, 800 24 00 24, il dottor Franzetti è pronto a darvi delle indicazioni. La nostra scheda ha presentato quattro situazioni differenti che possono però coesistere contemporaneamente. Dottor Franzetti, ma abbiamo parlato di naso. Il naso filtra l'aria. Lei ha una domanda proprio sull'aria, che è la grande protagonista, no, di questa puntata, ma non solo, è sempre in prima pagina in questi giorni. Quindi? E quindi io, siccome vengo qui per il quizzettone. Per il quizzettone, sì, ha preso questa piacevole abitudine per distribuire libri ai nostri ascoltatori anche negli ultimi giorni dell'anno. Ho preparato un quizzettone. Vediamo. Allora, quando andiamo a studiare l'aria, abbiamo detto che si vanno a studiare delle particelle e si chiamano PM. Andiamo a studiare il PM10. Sì. No? Che cosa vuol dire PM? Prima ipotesi, PM vuol dire pulviscolo magnetico. Seconda ipotesi, PM deriva dall'inglese particulate matter, che vuol dire materia particolata. Terza ipotesi, PM vuol dire polveri malsane. Polveri malsane, beh, in effetti sono un po' malsane. 800 24 00 24, quale di queste tre opzioni scegliete? Intanto un altro ascoltatore, Ugo, ci scrive per il suo rimedio, è crema al pantenolo, è un galenico da mettere nel naso due volte al dì, fa benissimo, ferma batteri e polvere, vedrete il fazzoletto, lo acquista in farmacia. E andiamo a Francesca, che ci chiama da Verona. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, buongiorno, e auguri. Salve. Grazie anche a voi. Io avevo una domanda da fare al dottore. Sì. Ho sentito ancora parecchi anni fa parlare dei cosiddetti ionizzatori dell'aria. Secondo lei, dottore, potrebbero essere un valido aiuto ora per purificare le nostre stanze, per esempio dove dormiamo, dove viviamo, appunto nelle nostre case? Sì. Grazie, bella domanda, perché l'aria inquina, l'aria delle nostre case è inquinata, ne abbiamo dedicato proprio una puntata, al pari se non peggio delle, di quella che respiriamo fuori dalle nostre case, quindi si cade dalla padella alla brace, dottor Franzetti. Certo, in ambienti non troppo grandi lo ionizzatore può migliorare sicuramente la, la quantità dell'aria, soprattutto in periodi dove ci sono queste particelle corpuscolate. Quindi lei lo suggerisce anche per anche sì, nel... in ambienti non troppo grandi. Soprattutto poi quando ci sono dei bambini. Sì. Quali attenzioni possiamo seguire per i bambini? Perché non tutti possono cambiare aria, che tra l'altro voi suggerite sarebbe una buona cosa, no? Indubbiamente per il bambino per il bambino è sarebbe un toccasana, però non si riesce sempre a portarli al mare o in montagna. In questi casi quali attenzioni possiamo seguire per evitare che i nostri bambini così piccoli facciano un aerosol malsano? È una bella domanda questa. Nel lavaggi nasali? Che l'ideale, nel modo che ha detto... l'ideale appunto è cercare di rendere efficienti e efficaci tutte le difese che il bambino ha. Quindi il lavaggio nasale sicuramente fatto adeguatamente, una sana igiene anche dell'idratazione, dell'alimentazione, perché queste sia l'idratazione che un'alimentazione adeguata con gli apporti vitaminici adeguati migliorano proprio le difese immunitarie a livello delle alte vie respiratorie, sostanzialmente questo. E poi non diciamo intestardiamoci a portare per forza di cose i bambini nelle aree di punta, no? A fare il giretto col passeggino, perché respirano di tutto. Allora, ci scrive un'ascoltatrice, Mara da Torino, che forse non ci ascolta quasi mai. Perché non dire che bisogna respirare solo con il naso e mai con la bocca? Mara, l'abbiamo detto tante volte, anche qualche minuto fa il dottor Franzetti, meglio sempre respirare con il naso, non serve. E a proposito di bocca, dottor Franzetti, c'è chi si ripara con la mascherina. Lei la trova una buona idea, inutile, da suggerire a soggetti particolari? Ma allora, c'è mascherina e mascherina. Andare a fermare delle particelle di un micron, una mascherina di quelle che si vedono in giro, di solito non serve a niente. Ci sono delle mascherine però ci dà l'idea, no? Ipertecniche che sono in grado anche di filtrare delle particelle così piccole, però voglio dire, tendenzialmente vorrebbe dire proprio vivere con lo scafandro, ecco. Quindi lei in questa risposta lasciate, se dovete acquistare una mascherina non acquistatela, non serve. Il rimedio non è vivere con lo scafandro per il benessere della persona, ma vivere con un'aria più pulita. Ecco, attenzione che ci raggiungerà, come anticipato il dottor Avoledo, con tanti rimedi naturali per rinforzare il nostro sistema immunitario, per contrastare questo attacco dell'aria inquinata, ma anche virus e batteri che in questa stagione ci aggrediscono. Fabio, buongiorno, da Brescia. Prima dei mercati, Fabio. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Che aria tira lì a Brescia? C'è nebbia, ma noi viviamo nella nebbia da novembre a fine dicembre sostanzialmente, o anche gennaio. Senta, Fabio, ma lei sente un odore strano o oltre alla nebbia che in qualche modo ci condiziona? Perché adesso tutto questo grigiore, uno dice, ma sarà la solita nebbia o sarà lo smog? Fabio, mi faccia un po' da inviato da Brescia, mi racconti un po' la situazione. C'è sicuramente un odore particolare. Chi è abituato alla nebbia come noi riconosce l'odore della nebbia, perché la nebbia ha questo profumo piuttosto che odore di umidità che porta in carico poi tutti i vari odori che ci sono attorno, perché li concentra, li condensa. Sì. Devo dire che si sente un'aria particolarmente pesante, e anche quando nei giorni magari un po' più chiari non c'è nebbia, questo odore, questa sensazione di aria pesante rimane. Sì. E proprio ti si appiccica, entra nel naso e rimane lì. Invece se posso dire una cosa brutta, spesso quando ci si pulisce il naso si nota un po' di grigiore nel muco. È vero, dottor Franzetti, dal nostro inviato Fabio da Brescia, quali indicazioni può trarre per i nostri ascoltatori? Ma paradossalmente la nebbia è fatta di gocciolone grosse e quindi ci porta a portare tutto nel naso, però aiuta la filtrazione. Dai. Perché è molto più facile che le particelle sottili passino il naso e arrivino ai polmoni con un'aria tersa, piuttosto che nella nebbia. È chiaro che noi percepiamo invece il fastidio maggiore. Perché? Perché fermandosi nel naso, anche il livello, diciamo così, di smog o comunque di odore, e il naso lo percepisce di più. E quindi se da una parte lo filtra, tant'è che noi lo possiamo trovare anche nel muco nasale, no? Lo filtra di più, però ci dà più fastidio. Allora Fabio, io so che lei deve fare una domanda, ma la porto con me a sentire i mercati e poi ci occupiamo del caso di Fabio, che gentilmente ci ha fatto il nostro inviato da Brescia. Tra poco. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati insieme in questa puntata in cui, partendo dalla qualità della nostra aria, tra poco ci raggiungerà il dottor Mocci per segnalarci la situazione in tre città italiane per assegnare la maglia rosa e la maglia nera. Parliamo anche di come l'aria inquinata può aggravare o peggiorare il nostro stato di salute, o meglio lo stato di salute delle nostre vie respiratorie. Abbiamo Fabio da Brescia, buongiorno e ribongiorno a Cuore Denari. È intervenuto raccontandoci un po' che cosa intercetta il suo naso lì in quelli di Brescia, ma la domanda di Fabio era un'altra. Fabio, lei ci ha chiamato per chiedere un consiglio riguardo a un problema. Esatto, dal vostro inviato da Brescia. Le è piaciuto, Fabio? Io guardi, le faccio arrivare un libro. È un piacere, la ringrazio. Allora, Fabio. Chiedevo al dottor Franzelli, volevo chiedere al dottor Franzelli, io soffro di ipertrofia dei turbinati. Da tempo, ho già subito un piccolo intervento per la riduzione, ma questo problema persiste nel tempo, perché sono stato bene forse per qualche mese e sicuramente credo che questa mia situazione aggravi tutte le situazioni di sindrome influenzali, di raffreddori, piuttosto che volevo capire se avevo qualche suggerimento per liberarmi da questo peso, perché inevitabilmente sento poco gli odori, sento poco i sapori e poi ho sempre questa sensazione di naso chiuso che mi spinge a respirare troppo spesso con la bocca. Allora, Fabio, devo dire che oltre a essere un perfetto inviato da Brescia, descrive i sintomi dei turbinati in modo impeccabile. Sembra quasi lei, dottor Franzetti. Ci ha detto che sente poco gli odori, che il naso si tappa, che potrebbe anche però colare, e che questo comunque peggiora la sua respirazione, perché è portato poi a respirare inevitabilmente con la bocca. Ci ha detto anche che ha fatto un piccolo intervento, ma non è stato completamente soddisfatto perché la situazione si è ripresentata. Dottor Franzetti. Ma allora, le due caratteristiche da studiare nei turbinati in questo periodo in modo particolare non è soltanto il fatto se si gonfiano o si sgonfiano, quindi se sono ipertrofici, ma soprattutto se le ciglia che ci sono sulla mucosa del turbinati funziona o non funziona. E questo si può fare attraverso un esame semplicissimo, che è una specie di spatolato, si tocca nel naso il turbinato con una specie di spatolina, di tamponcino, e si vede se queste ciglia ci sono e funzionano al microscopio. È una cosa che si fa ambulatorialmente. Perché? Perché il fatto che le ciglia funzionino ci dà la garanzia su due cose. La prima è che le cosiddette particelle si fermino e vengano buttate fuori. La seconda è che il muco che c'è sulla superficie del turbinato abbia la sua efficacia come battericida o comunque come difesa organica. Oltre a questo bisogna valutare che siano non troppo gonfi e non troppo sgonfi, anche l'inverso non va bene. Il piccolo intervento che può aver fatto, non so se è stato un intervento con laser, le radiofrequenze o quant'altro, è un intervento che non può essere dissociato da una terapia di tipo medico fatta continuativamente per un certo periodo, anche lungo o a cicli, che vuol dire fare non solo dei lavaggi ma anche degli aerosol e l'applicazione di spray, perché le due cose vanno fatte insieme. Quindi l'intervento... Bisogna fare prima una terapia medica, l'intervento che sia con laser, radiofrequenza e quant'altro, e la terapia post, perché se si disgiuncono questi due tempi e si carica sull'intervento momento l'aspettativa totale della risoluzione, può succedere che nell'immediato si abbia un beneficio e poi invece ritorni una disfunzione delle ciglia piuttosto che del muco. Quindi bisogna bilanciare bene questi due momenti. La terza cosa è valutare se oltre l'ipertrofia del turbinato ci possono essere delle altre patologie nasali, no? Per cui capire perché ha un po' di ipoesmia, lui ha detto, se c'è la presenza magari di edemi in altre zone delle mucose nasali, non solo sui turbinati, quindi un substrato pseudoallergico piuttosto che dei polipi o altre cose di questo tipo. Quindi andrebbe studiato endoscopicamente un po' questo naso. Allora, questa è l'indicazione per Fabio. Sicuramente Fabio ci diceva la situazione, la qualità dell'aria peggiora il quadro della mia condizione, no? Quali altre situazioni patologiche l'aria inquinata può aggravare? Tutto ciò sappiamo che fa male, no? La salute, sì, eccetera. Adesso, ma occupandoci di naso, gola, bronchi, parte alta dei polmoni. Sicuramente chi è esposto a delle infezioni ricorrenti peggiora le infezioni ricorrenti. Chi ha dei polipi nasali peggiora la situazione respiratoria. Chi soffre di iposmie oppure un altro sintomo che si chiama cacosmia, che vuol dire la distorsione magari lieve di alcuni odori, accentua questi disturbi. E quindi è come se uno vedesse amplificato il disturbo che normalmente lo affligge. 800 24 0024. Andiamo a leggere qualche messaggio. Ci chiamano molti ascoltatori, hanno risposto al domandone che riproponiamo, ma è valido solo la risposta giusta, naturalmente, all'800 24 0024. Tre opzioni, dottor Franzetti. Allora, la domanda è: che cosa vuol dire PM? Allora, la prima è pulviscolo magnetico, la seconda è una traduzione dell'inglese da particulate matter, che vuol dire materia particolata, oppure la terza è polveri malsane. Sicuramente questa è la risposta giusta, il nostro prossimo ospite la conosce ma non la darà. Buongiorno al dottor Mocci. Buongiorno, bentornato al nostro dottor Aria. Vede che anche il suo collega, il dottor Franzetti, ha giocato proprio sul... Mi ascoltavo con piacere. Ecco, per raccontare. Perché questo è fare educazione, secondo me è importantissima. Informare la gente anche sul significato della parola, perché in tanti parlano di questo PM, ma PM, ma 800 24 0024, parliamo di questo PM. Dottor Mocci, cosa facciamo? Andiamo in giro per l'Italia? Oggi facciamo il solito giro, sì, percorrendo l'Italia. Iniziamo come sempre questa volta iniziamo dal sud. Ma sì, iniziamo da Cosenza, da Cosenza. E Cosenza ha un PM intorno mediamente a 50, quindi gli diamo un giallo che però tende al rosso, siamo al limite, perché 50 è il limite massimo consentito dalla legge, quindi siamo lì, giallo-rosso. Poi saliamo e andiamo all'Aquila, e l'Aquila è un giallo perché ha 45 di PM. Oggi vi do anche i valori, così almeno anche PM questo... 45 significa 45 microgrammi per normal metro cubo. In un metro cubo di aria ci sono 45 microgrammi di queste particelle. Non deve superare il 50, questo esatto, noi abbiamo capito. E non lo deve superare per la tutela della salute, e poi per legge non deve superarlo per più di 35 volte in un anno, ma ormai le città stanno superando di molto. Dall'Aquila, con un giallo, saliamo a Como. Como, uno si aspetterebbe il lago, nell'idea, Como... Invece Como è rossa, rosso molto molto netto, perché ha 85 di PM10, ma addirittura un 66 di PM2,5, che è molto alto, perché il PM2,5 è quello ancora più piccolo e quindi quello più pericoloso. E poi ha valori un po' alti di ossidi di azoto e presenza di benzene, valori un pochettino elevati. Quindi un rosso bello carico a Como. Dottor, sì, mi dica. No, volevo chiederle, dato che la domandona del dottor Franzetti riguarda proprio il significato di PM, no? Il dottor Franzetti ci ha detto che nel naso, nella nostra gola, nella parte alta dei nostri polmoni, nei bronchi ci sono delle polveri con delle dimensioni diverse. Vuole darci due indicazioni base su queste PM, poi chiediamo agli ascoltatori. Per semplificare, togliere i numeri, perché sono cose che si ricordano di più, sono le parole. Noi diciamo polveri sottili, le polveri sottili sono quelle da 10 micron, poi le distinguiamo in fini, quelle inferiori a 10 micron, quelle fino a 2,5, quindi sono polveri fini, ma poi abbiamo le ultrafine sono quelle sottilissime da 0,01 fino a 0,001 micron, perché ormai riusciamo a misurare anche quelle, e quelle sono le micidiali, che riescono a superare tutto quello che ci ha detto il professore, superano l'apparato respiratorio, arrivano fino negli alveoli del polmone e da lì riescono a passare e ad andare in circolo. Ed è per questo, da lì si spiegano le varie malattie che insorgono, le aritmie cardiache, gli infarti, le angine, le ischemie, le emorragie cerebrali. Queste polveri sono talmente sottili che addirittura si ipotizza, c'è uno studio, lo stesso Best Order l'ho dimostrato, che riescono ad attraversare attraverso il bulbo olfattorio, quindi quando noi respiriamo riescono ad andare nel bulbo olfattorio e da lì arrivare al cervello. Sono talmente sottili che nessuno riesce a... Parliamo di virus, della dimensione di un virus. Insomma, sentire queste notizie viene da trattenere il fiato, il respiro. Purtroppo io sono anni che parlo di questo. Lei è venuto tante volte a Cuore Denari, ancora a Essere Benessere. Adesso non vogliamo dire... Non sospetti, certo. Ma questo ce lo dice poi la IARC, l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, che ha sede a Lione, nel 2013 ci ha detto che l'aria inquinata, cioè quindi l'inquinamento dell'aria, è cancerogeno e l'ho classificato nel gruppo 1, quindi cancerogeno certo. Allora, abbiamo fatto molta attenzione sul discorso delle carni lavorate cancerogene, abbiamo riempito, ecco, sul fatto che l'aria, proprio perché una della carne può farne a meno, nel senso che decide per una serie di ragioni, non sto commentando la scelta eccetera, non scrivetemi, ma è una considerazione di non mangiare la carne, e l'aria invece, senza aria noi non possiamo vivere, e quindi forse tendiamo un po' a scotomizzare questo problema, invece bisogna far crescere almeno questa cultura, questo rispetto dell'ambiente. Dottor Mocci, la maglia nera e la maglia rosa, allora, oggi non me la date, perché questa notte, questa mattina ho controllato la qualità dell'aria, perché tutti questi giorni Milano, Roma, ma andiamo un po' a vedere come stanno le capitali europee. Sì. Parigi a un giallo, 46, e Londra ha un verde, perché ha 33. Ma Londra è già la seconda volta che diventa verde. A meno inquinamento di Roma e di Milano, perché Roma siamo oltre i 50, Milano oltre 60, Madrid è 46, ma la maglia rosa oggi la voglio dare a Berlino, perché Berlino ha 27. Evidentemente in queste capitali sono fatte delle politiche di trasporto e di salvaguardia dell'ambiente, che non devono essere a spot come si sta facendo ora, ma politiche a lunga durata, quello che spero si farà e si intraprenderà anche da noi. Ecco, anche le metropoli possono avere un'aria respirabile, questo è un messaggio, quindi noi abbiamo dei modelli a cui possiamo tendere, mettiamola così, con un taglio positivo. Ecco, è questo, era per dare stimolo a fare qualcosa anche qui da noi, non bisogna sperare solo nella pioggia, non è quella la soluzione. Dottor Mocci, la nera, purtroppo la diamo di nuovo a Ceccano, Cesano e Frosinone, perché in quell'area veramente livelli altissimi, hanno superato di tanto i limiti consentiti dalla legge. E anche loro una maglia nera, che vuole essere un invito a darsi un po' una mossa, a fare qualcosa, naturalmente. A fare qualcosa. Dottor Mocci, noi ci sentiamo come sempre domani. Siamo qua. Ultima puntata dell'aria che respiriamo domani, il 31, dopo fino al 31, in cui daremo anche delle pagelle, vero? Delle varie ARPA. È così? Varie ARPA, sì. Andiamo a vedere in che modo riescono a dare la comunicazione, se è facile, se è facilmente fruibile, se è facilmente leggibile, oppure diventa difficile. Perché se noi adesso diamo questa informazione, poi la gente mi chiama, mi dice: ma come posso fare per andare a verificare e vedere? E allora domani daremo anche qualche pagellina alle varie ARPA regionali d'Italia. Grazie dottor Mocci, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, torniamo subito dopo con il dottor Franzetti. Franco da Lucca si prepara per rispondere al domandone, mentre Agostino ci chiede un consiglio. A tra poco. Cuore e denari. Eccoci, veloci veloci, siamo tornati dopo le pagelle del dottor Mocci, medico per l'ambiente, rimedi per cercare in qualche modo di fare buon viso a cattivaria. 800 24 00 24, abbiamo Franco da Lucca che si candida per la risposta al quizzettone del dottor Franzetti. Franco, buongiorno. Buongiorno. Intanto da Lucca, un po' come ha fatto il nostro primo inviato, mi faccia un po' l'inviato da Lucca. Che aria si respira lì? Che cosa, allora, che cosa sente? Allora, io sono a Lucca, ma sono a Forte dei Marmi. Beh, e fortunello. Si respira una buona aria. Bene. E il tempo non è bellissimo, oggi fino a ieri è stato splendido, però la qualità dell'aria è buona e anche la qualità della vita. E quindi, insomma, è già in vacanza, Franco, lei? Certo, io abito lì. È fantastico. Allora, la risposta di Franco vada, vediamo se è quella corretta. Che cosa sono le PM, cosa significa? La numero due. La numero due, che è dottor Franzetti. È giusta. Franco adesso sarà contattato dalla regia e lei sceglierà se riceverà a caso un libro di Cuore di Denari. Intanto tanti auguri. La ringrazio e contraccambio a tutto lo staff. Complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie a Franco. Allora, tra poco ci raggiungerà anche il dottor Luca Voledo per suggerirci dei rimedi. Allora, lavaggi nasali, abbiamo messo: evitate di correre nei parchi almeno in questi giorni. Potete andare in palestra, ad esempio, di portare a tutti i costi i bambini al parco per farli giocare. Possono far buon viso a cattivo gioco, ma a cattivari e giocare a casa. Problema delle mascherine. Quelle che non sono ad hoc non mi sembra che non siano utili, bisogna, se proprio vogliamo munirci di mascherina, deve essere quella. Sì, esistono delle mascherine certificate che per sono filtrare le microparticelle, quasi professionali. Cioè. Allora, abbiamo, e a proposito abbiamo Luca che ci chiama da Genova. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno. Siamo qua, Luca. Allora, niente, no, volevo dire che io lavoro in una società che produce queste mascherine protettive. Sì, e, quelle professionali. Sì, professionali, che però sono sempre quelle mascherine che si vedono, che sembrano di carta, ma non sono effettivamente di carta. Quali sono le caratteristiche che deve avere una mascherina per proteggerci veramente dall'inquinamento? Allora, devono essere certificate EN149, cioè sulla mascherina ci deve essere questo marchio EN149. Poi ci sono diverse classi di protezione, la P1, la P2 e la P3. La P3 è quella che ha una protezione maggiore e arriva al 99% di filtrazione di PM2,5. Quindi noi, quelle, senza fare la pubblicità alla società, ecco, la prego, dove lavoro, le nostre arrivano a una filtrazione del 99% del PM2,5. Comunque, il messaggio è: ci sono delle mascherine, dottor Franzetti, che però perché facciano il loro lavoro devono essere certificate. E non assolutamente invasive, nel senso che sono addirittura, ci sono colorate con dei disegni diverse. Lei va in giro con la mascherina, Luca, lavorando in una società che le produce? Allora, i nostri operai hanno le mascherine. Beh, no, lei quando passeggia per Genova usa la mascherina? No, perché Genova è una città che si affaccia sul mare e ha dei livelli di inquinamento molto bassi. E quindi domani chiederò al dottor Mocci di verificare. Comunque lei lavora ma non ha occasione di utilizzarla. Diciamo che le utilizziamo per le nostre prove, per le prove di traspirabilità, le facciamo dei test continui, però diciamo che non solo quelle della nostra società, ma quelle certificate N149 per legge devono dare una protezione adeguata. Alta. Esatto. Grazie. E non sono chiaramente un rimedio strutturale, temporaneo. Luca, tutto fa. Intanto la ringrazio, mi saluti Genova, si mangi un pezzo di focaccia alle cipolle che io adoro per me. E io saluto Luca Voledo che è in linea con noi. Buongiorno dottora Voledo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie. L'aspettavamo. Allora, il nostro amico Luca da Genova lavora in un'azienda che produce mascherine, ci suggerisce naturalmente di usare anche le mascherine, anche se lui abita in una città che dice, insomma, con un'aria così buona che non ha bisogno di utilizzarle. Ma, allora, lei che rimedi ci dà per ridurre gli effetti nocivi dello smog? Beh, ce ne sono diversi. È chiaro che non possiamo sfuggire agli effetti dell'inquinamento, quindi non c'è prodotto naturale o meno che possa sostituire delle politiche ovviamente ambientali, però esistono degli specifici rimedi, delle soluzioni che ciascuno di noi può adottare per arginare i danni perlomeno, e una delle mie preferite è un buon mix di specifiche vitamine e minerali, in particolare la vitamina A, o meglio ancora il beta-carotene che è il suo precursore, la classica arcinota, vitamina C, la vitamina E e due minerali come lo zinco e il selenio, ovvero alcuni tra i migliori micronutrienti antiossidanti che conosciamo, che sono in grado di contrastare i danni alle cellule che l'inquinamento è in grado di provocare. In più aiutano anche, come la vitamina C, a disintossicare l'organismo, in particolare migliorando il lavoro del fegato, e visto che siamo in stagione e ne parlavate, sono anche tutte sostanze, in particolare la vitamina C, il selenio e lo zinco, immunostimolanti, ovvero che sostengono le difese dell'organismo. Magnifico. Allora, poi possiamo aiutarci anche con l'alimentazione, con la nostra dieta. La stagione offre sempre i prodotti che ci aiutano. Verissimo. In quel momento la natura è molto, la vede lunga, insomma. Certo, sicuramente la frutta e la verdura vanno bene tutte, che sono arcinoti, i loro benefici sono gli alimenti più ricchi di sostanze antismog, ma c'è un vegetale che merita un'attenzione particolare o speciale. Si tratta dei broccoli, che sono perfettamente di stagione, come appunto dicevamo, più in generale anche tutte le rappresentanti della famiglia delle brassicacee, delle crucifere, quindi anche i cavolini di Bruxelles, i cavoli, la verde, i cavolfiori. Queste sostanze, queste verdure in particolare, possiedono la capacità rimuovere molti degli inquinanti dell'organismo e di attivare il nostro sistema difensivo, in particolare con riferimento proprio alle vie respiratorie. Grazie ad alcune sostanze, in particolare alcuni composti solforati che contengono, aiutano anche broccoli e simili a migliorare le capacità detossificanti dell'organismo. E se poi pensiamo che sono anche tra gli alimenti a più alto potere anticancro, altro evento, ahimè, tristemente associato all'inquinamento, allora davvero non c'è ragione di farsi mancare i broccoli sulle nostre tavole. E poi si preparano in mille modi, mille ricette. Vero. Andiamo ai bambini. Sì, i bambini, questi rimedi possono essere dati anche a loro, soprattutto ai bambini un po' grandini, ma per i bambini più piccoli ci sono dei rimedi molto utilizzati in ambito naturale, che sono gli oligoelementi, rimedi appartenenti all'oligoterapia, quindi rimedi venduti in forma liquida, molto diluiti, molto delicati, privi di effetti collaterali, adatti anche ai bambini, sono venduti in fiale bevibili in genere da 2 ml, e sono utili in particolare alcuni di questi oligoelementi, quindi molto delicati, come il manganese rame, sono utili in prevenzione di raffreddore, laringite. Ma si fanno dei cicli brevi? I cicli, molto giusto l'osservazione, bene utilizzarli in prevenzione per cicli a dire il vero medio-lunghi, quindi a partire dall'autunno, ma a dosaggi molto bassi. Per i bambini, per esempio, una fiala bevibile 2 volte alla settimana, e si prosegue per tutta la stagione invernale. Se invece purtroppo capitano gli eventi acuti, a questi oligoelementi come manganese rame se ne possono abbinare altri come rame oro argento o il solo rame, che sono efficacissimi per sostenere il lavoro di manganese rame e di contrastare attivamente, per le loro proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e immunostimolanti, tutte le patologie e le infezioni delle vie respiratorie. Dottora Voledo, se l'inquinamento e l'influenza invece hanno già fatto danni, insomma se siamo a casa già malati, influenzati, Allora, per gli adulti, ma anche per i bambini, possiamo pensare a dei rimedi, quelli che vengono chiamati i prodotti dell'alveare, cioè prodotti dalle api, perfetti per il mal di gola, la tosse, il raffreddore, e due, in cima alla lista, la propoli, arcinota, che è una sorta di antibiotico naturale, ma più correttamente dovrebbe definirsi antimicrobico, perché lotta contro tutti gli agenti patogeni. La propoli può essere utilizzata serenamente anche nei fatti acuti, ha virtù battericide e va benissimo per esempio la tintura madre, di cui si usano 30-50 gocce in mezzo bicchiere d'acqua 2-3 volte al giorno. A questa si può abbinare un miele particolare che negli ultimi anni sta salendo agli onori della cronaca, che è il miele di Manuka, che è un miele che arriva dalla Nuova Zelanda. Tutto il miele fa bene, ha caratteristiche benefiche e antibatteriche. Il miele di Manuka fa ancora meglio, perché ha delle... È un super miele. È un super miele, è perfetto proprio perché ha un'azione antibatterica, antiossidante, antinfiammatoria e immunostimolante. Quindi perfetto in questo periodo. Ha un unico difetto, costa molto. Quindi però, consumatene poco. Basta un cucchiaino, ecco, 2-3 volte al giorno. Grazie al dottor Avoledo per essere stato con noi. Augurissimi per un buon 2016. Auguri anche a voi, grazie, a presto. Grazie. Dottor Franzetti, in chiusura abbiamo 2 minuti, tutti dedicati a lei, con raccomandazioni, consigli, prima di salutarci, quindi per scongiurare l'influenza, ma non solo, per riparare, per proteggere e mantenere il benessere della nostra gola e del nostro naso. Ma allora, la prima cosa che vorrei dire è, siccome ci stiamo educando ad affrontare le situazioni, diciamo così, invernali o di inquinamento, la prima cosa è, non è un fenomeno acuto quello a cui siamo sottoposti. Mi veniva in mente, parlando per esempio delle mascherine, di alcuni espedienti prima, non è che io dico vabbè, adesso che ci sono, c'è il PM alto per 2-3 giorni porto la mascherina e poi dopo no. Allora, è una scelta che uno fa, quindi deve fare una scelta adeguata di comportamento, che è una scelta libera, perché uno può decidere di fare una certa cosa piuttosto che un'altra, ma è una cosa che deve cercare di evitare l'esposizione cronica a determinate situazioni, perché non è che 3 giorni di pulviscolo, certo, oddio, chissà cosa fa succedere. È lo stesso, quindi, sì, quindi è un'emergenza tra virgolette. Da un certo punto di vista, l'aver coscienza di questo ci introduce, sia dal punto di vista più sociale che dal punto di vista personale, a una serie di atteggiamenti, di attenzioni che però bisogna avere. E questo serve però per sempre, non serve solo per alcuni momenti di emergenza. Questo è il primo concetto importante. Quindi i lavaggi, tutte le vitamine, tutti questi aiuti che possiamo dare, le vaccinazioni che laddove sono indicate sono fondamentali, sono delle cose che devono diventare parte del costume di una persona. Dottor Franzetti, io la ringrazio di cuore per essere stato con noi, mi piace sempre quando lei viene a trovarci, la saluto anche da parte di Debora e le auguriamo, ormai perché Debora torna domani, un buon anno. Buon anno anche a tutti. Allora, Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, e questa è una garanzia, Marco Lombardo in redazione, domani torna anche Debora, buona giornata.